Buongiorno a tutti, siamo qui nella biblioteca Sala Borsa in occasione della conferenza stampa del tanto atteso appuntamento estivo Sotto le stelle del cinema, che si terrà a partire dal 21 giugno. Buongiorno al dottor Gianluca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, e grazie per essere qui con noi ai microfoni di Radio Città Fucico. Salve, benvenuto. E insomma, dai grandi classici al nuovo cinema di ricerca, il programma di questa edizione è denso e ricco, ce lo può raccontare brevemente? Sono 52 serate, mi verrebbe da dire all'insegna di Il paradiso può attendere, il titolo del film di Lubitsch, in cui mescoliamo serate su grandi temi sociali, penso alle due serate dedicate al lavoro, al premio Ciputi, al World Press Photo, penso al film che mostreremo martedì sera, quando eravamo re, che è un film che canta la gloria dell'Africa. Poi una serie di film per ridere, per risentire la risata all'unisono della piazza e della Lunetta Arena, con grandi classici come La banda degli onesti, Fantozzi, Febbre da cavallo, Il dramma della gelosia. Poi la storia del cinema, i grandi capolavori da Renoir a David Lynch, da Buñuel, veramente a Stevens, a Wells, e poi alcuni grandi ospiti, penso a Nanni Moretti, ad Alice Rohrwacher, a Paolo Virzì, a Gianni Amelio, ad Abat Antuono, a Brignano, che verrà a presentare un film di Fabrizi, e poi tanti film di viaggio, perché abbiamo voglia di viaggiare, il cinema ci può aiutare, e a cominciare dal K2, le riprese straordinarie fatte proprio da un bolognese, da Mario Fantin, che era con la spedizione che arrivò per la prima volta in cima al K2, che è la seconda cima del mondo. Per me è stata l'ultima grande avventura sulla terra, e Fantin ha saputo raccontarla con un umanesimo che è da brividi. Sarà una bellissima serata, accompagnata dal vivo, dalle musiche di Teo Usuelli, che scrisse all'epoca. Inoltre, Sotto le stelle del cinema rappresenta l'emozione di una visione collettiva, e dopo oltre un anno fatto di distanze e preoccupazioni, che cosa significa ritrovarsi in questa occasione che ormai è anche parte dell'identità bolognese? Beh, vuol dire ritrovare il piacere di stare assieme, vuol dire ritrovare il piacere di stare nella nostra città, ritrovare il piacere di essere parte di una comunità che crede nella cultura, che crede nella bellezza, che crede nell'intelligenza, che crede nel meglio del cinema e di quello che il cinema ha saputo raccontare in questi 126 anni. E inoltre, oltre a Piazza Maggiore, ci sarà anche un altro schermo, quello del Parco della Lunetta Gamberini. E da che cosa è motivata, è nata questa scelta? L'idea era, l'anno scorso, Barca Arena straordinaria, l'idea era, c'è Piazza Maggiore, ma poi c'è tutta la città, andiamo alla ricerca dei luoghi, abbiamo trovato questo luogo che, insomma, fa parte anche dell'immaginario di tutti i bolognesi, penso, perché è un luogo magico, che aveva anche le caratteristiche giuste, perché è un campo sportivo molto grande, perimetrato, e che quindi nel quale è relativamente facile seguire le regole del distanziamento, del contingentamento, ecco. E poi c'è proprio quest'idea dell'amministrazione di coinvolgere, di andare verso i cittadini, ecco, quindi non solo Piazza Maggiore. Va bene, io la ringrazio moltissimo e a presto. Grazie a lei, salve.